Riconvocati Weekend con Giovanni Capuano. 800 24 00 24, aspetto le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, e potete seguirci come sempre anche su Twitter, @ tutti convocati, tutti i canali aperti per raccontare questa domenica senza calcio ma comunque ricca di emozione. Abbiamo ancora sulla pelle i fischi di Monza per Sebastian Vettel, il vero dominatore del mondiale di Formula 1. Tra poco saremo a Capodistria per Italia-Grecia, manca un passettino alla qualificazione alla seconda fase dell'Europeo. 800 24 00 24, canali aperti per voi per dire cosa ne pensate di Fernando Alonso, delle sue parole sul mondiale che assomigliano tanto a una resa. Poi vi faccio sentire anche come è stato accolto dal popolo della Ferrari a Monza quando è salito sul podio. E adesso la nostra prima pagina. Aveva gli occhi di tutti addosso, campione troppo emotivo, sangue caldo, sbattuto in faccia al mondo nelle sue difficoltà da quell'insulto imbarazzante riservato agli uomini del muretto ieri. Alonso ha vissuto oggi un altro giorno da fenomeno triste, non ha vinto, non poteva, troppo forte Vettel sulla Red Bull, e alla fine dal muretto, proprio quello degli scemi o dei geni, glielo hanno detto. Più che lottare come leoni non si può fare, e oggi, questo weekend, abbiamo fatto. Alonso che si è consumato per inseguire Vettel che gli scappava via con la sua beffarda lucina rossa accesa anche senza pioggia. Sì, ma come fa a fare tutta la gara con luce lampeggiante? Alonso che ha provato anche l'azzardo al giro numero 24 con Vettel ai box e lui staccato di 5 secondi. Rimaniamo calmi, mentre facciamo dei verdi. Esatto, spingiamo. L'azzardo che non ha pagato, Vettel è volato via, il mondiale è volato via, mancano ancora 7 gare, ci sono 53 punti da scalare, 7 calvari da vivere per un campione tormentato che con la rossa vive una storia che forse è finita o forse no. Quindi c'è da lasciarlo passare, veramente siete dei scemi, mamma mia ragazzi. E allora noi ci consoliamo con l'Italia del basket, alle 17.45, Italia-Grecia, appuntamento con la storia di questo europeo. Noi abbiamo vinto, combattuto contro gente più grossa e decidevamo noi il ritmo. Oggi sapevamo che il ritmo probabilmente all'inizio, e così è stato, l'avrebbero deciso loro. Giocavamo con una squadra con più ritmo di noi, con più tiratori, quindi c'era da cambiare pelle. Ci sarebbe anche la lunga vigilia d'Italia Repubblica Ceca martedì o lì allo stadio di Torino, però si parla d'altro. Vi piace la nostra nazionale multietnica che oggi ha incontrato il ministro Chieng per parlare di razzismo? A me piace da morire. E poi anche questo weekend finirà e ci tufferemo nella settimana di Inter-Juventus. A proposito, oggi visto Ronaldo, quello vero, insieme a Tevez e Lorente, chissà di cosa avranno parlato, chissà. Tutti convocati. Chissà di cosa avranno parlato, caro Carlo Genta. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao Giovanni, e chi lo sa, avranno non ho idea di che cosa possano avere parlato, magari su chi scommettere per Inter-Juventus, però insomma mi sembra che è bellissima la copertina, penso che farà compagnia un sacco di gente in macchina e chiameranno in molti, io credo saranno quasi tutti arrabbiati, perché hai ragione quando dici che oggi Alonso ha firmato la resa della Ferrari, è un Vettel imprendibile, quindi non c'è molto da aggiungere a quanto la corsa ha fatto vedere. È stata una grandissima gara quella di Alonso, ma contro i marziani non puoi fare niente. Sì, è stato l'ennesimo pomeriggio tormentato di questo spagnolo che ritiene, forse ha ragione, forse ha torto, di essere il pilota più veloce del mondiale, ritiene di essere su una macchina che non lo asseconda pienamente. Io credo su questo abbia ragione. Io ho il mio pensiero anche su quello che è accaduto ieri, poi sentiremo Alonso, oggi se l'è presa con i giornalisti, ha detto che è tutta colpa nostra, se si montano delle polemiche. A me non è piaciuto quell'insulto riservato agli uomini del muretto, nemmeno il tentativo di retromarcia, però mi è piaciuto questo pomeriggio da uomo tormentato, lo abbiamo sentito nei team radio della gara, soffriva non riuscire a essere al passo di Vettel. Ma sì, ma Alonso soffre ormai da molti anni, Giovanni, secondo me ha ragione su quasi tutta la linea, ora lasciando perdere il rumore dei labiali, i suoni dall'abitacolo, ormai sai, in tutti gli sport non si può più parlare, non si può più dire niente. È chiaro che in Formula 1 non puoi parlare con la mano davanti come fa Cassano, però ormai è tutto in piazza, quindi sono cose da spogliatoio comunque siano, e tali devono rimanere. Non mi scandalizzerei più di tanto. Alonso è il pilota più forte del mondo ed è un pilota frustrato perché ha una macchina non all'altezza. Lui sono anni che fa i salti mortali per tenere comunque la Ferrari in linea di galleggiamento, però evidentemente il limite è questo. Io tante volte ho detto che secondo me il valore della Ferrari, il valore reale di questa macchina è dato dai risultati di Felipe Massa. Quindi vedete un po' voi qual è il distacco in classifica tra Alonso e Massa e fate due conti. Sì, io non credo che la differenza sia tutta questa. Massa tra l'altro è un pilota che oggi ha quasi ufficializzato il suo addio dalla Ferrari. L'annuncio potrebbe arrivare mercoledì, ma tra poco andiamo a Monza a vivere tutto il dopo gara con Dario Ricci, con i suoi ospiti. Ricordo ancora il numero 800 24 0024. Partiamo dalla Formula 1, ma questa è una domenica comunque ricca di sport, anche se non c'è il calcio, perché poi saremo anche in Slovenia per Italia-Grecia di pallacanestro. Ce la faremo raccontare da Carmelo Prestisimone, gara che ci deve regalare il pass per una qualificazione clamorosa alla seconda fase, visto quali erano i presupposti di partenza. Carlo, a me non sono piaciuti nemmeno questi fischi, te li faccio sentire, il modo con cui la gente di Monza ha accolto Sebastian Vettel. Alzate il volume. Ora, è vero che è tradizione a Monza e c'è anche chi ha avuto un trattamento peggiore, però io sinceramente trovo un po' antisportivo. Vettel ha dominato, domina il mondiale, è un pilota straordinario. Io non penso nemmeno che domini soltanto perché è sulla macchina più veloce, altrimenti si dovrebbe fare per analogia la definizione di Alonso dicendo che è il pilota più forte del mondo a patto che abbia la macchina più veloce del mondo. Sì, i fischi, insomma, non dimentichiamo che siamo il popolo del Palio di Siena, del processo del lunedì di mille moviole, quindi lo viviamo così in maniera anche un po' sgarbata, un po' maleducata, un po' istintiva. Quindi insomma, Monza è sempre stato teatro di trionfi da Ferrari, di grandi polemiche, insomma, siamo così. Ripeto, Alonso non guida la macchina più forte che c'è, forse neanche la seconda, è un grandissimo pilota, fa quello che può, e quei fischi sono, interpretiamoli come fischi di frustrazione, perché sono troppi anni ormai che la Ferrari non vince il mondiale, e questi anni pesano, io credo. Sì, 800 24 0024, a proposito di mondiale, vi chiediamo anche da casa: è finito questo mondiale, 53 punti sono il solco che divide Vettel da Alonso, mancano 7 gare, dopo sentiremo Alonso. È finito o no questo mondiale? Massa merita o no la conferma in Ferrari? E poi anche questo rapporto difficile tra Alonso e la Ferrari. Io dico la mia prima del traffico: Alonso può aver ragione, la Ferrari non sempre è competitiva come dovrebbe essere, ma non si può permettere quello che sta accadendo in questa parte finale di questa stagione. Non è soltanto il team radio di ieri, è la battuta sulla macchina di Vettel che vorrebbe avere in regalo per il suo compleanno, sono una serie di atteggiamenti che credo non facciano bene al team, che in qualche modo mettono Alonso, se non fuori ai confini con la Ferrari, che è pur sempre la Ferrari e va rispettata. Ci fermiamo, traffico 800 24 0024 per le vostre telefonate. Yes, very very good boys, very good, great race. Sorry for the lock up in the first corner, made the first stint a bit tricky, thank you. Tutti convocati. 800 24 0024, chiamate per dirci cosa ne pensate di Alonso, del Gran Premio di Monza di oggi. Ha scritto un amico al 349 238 6666: secondo me, anche anticipando il pit stop, Alonso non avrebbe cambiato il destino di questa gara, perché è stato comunque più lento di Vettel. Carlo, direi la fotografia, al di là che si può discutere se sia stata una strategia giusta o sbagliata, comunque dell'inferiorità in questo momento della Ferrari sulla Red Bull. Sì, ma certamente, rispondo io alla domanda che hai fatto agli ascoltatori. 800 24 00 24, sono curioso di sentire anche la loro opinione. Mondiale è finitissimo, non finito, proprio in banca per Vettel. Quarto titolo, Alonso ne ha 22, non ci sono due titoli del mondo di distacco tra questi due piloti, torno a ripetere. Altro tema, Raikkonen ha già firmato per la Ferrari, così si dice, io ci credo. Non sono così convinto che Alonso voglia correre con Kimi Raikkonen. Non mi piace la strategia delle due punte. È chiaro che Massa ormai è diventato un inutile zerbino che non porta nulla alla Ferrari nei termini di sviluppo, di esperienza, di punti sottratti agli altri, eccetera eccetera eccetera. Quindi è chiaro che serve un pilota diverso, però io continuo a pensare che il mondiale sia più semplice vincerlo con una punta sola e un buon rifinitore, mettiamola così, sia di Resta sia qualcun altro, però un buon rifinitore che non faccia nascere dei sospetti all'interno delle gerarchie della squadra. Quindi secondo me questo è un altro tema. Poi molti la pensano in modo diverso, cioè molti vorrebbero vedere due grandi piloti. Raikkonen lo è, un grande pilota sulla rossa. Boh, io non sono così convinto che Raikkonen possa essere un vantaggio. Certo, no. Assolutamente. Grazie Carlo. Figurati a voi. Grazie. Buona Carlo giornata. Genta, ciao. 800 24 00 24. E allora direi che è arrivato il momento di andare a Monza dal nostro Dario Ricci. Ciao Dario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Insomma, ci sono tanti temi sul tavolo, perché questo Gran Premio ne lascia in eredità tanti. Io però vorrei farti sentire, vorrei fare sentire soprattutto agli amici da casa, come il popolo della Ferrari ha accolto Alonso sul podio, perché se questo pomeriggio era anche un referendum su Alonso e il suo rapporto con la Ferrari e con il suo mondo, dopo anche le polemiche di ieri, le prime pagine graffianti dei giornali italiani e non solo oggi, beh, sentite che cosa è successo quando Alonso è salito sul podio un'ora fa. Fernando Alonso, quarto podio consecutivo a Monza con la Ferrari. Questa è Monza per la Ferrari. Mi sembra, Dario, di poter dire che se era un referendum pro o contro Alonso, Ferrari, Alonso lo ha vinto. Direi di sì, direi che Alonso ha vinto questo referendum tra il popolo ferrarista con quell'applauso. Da biasimare invece direi i fischi eccessivi a Sebastian Vettel, che guida una grandissima macchina e ci sta confermando un grandissimo campione, e sarebbe stato bello che anche un pubblico competente come quello di Monza lo avesse manifestato con maggiore chiarezza. Chiedo conferma a Leo Turrini, che sta qui tormentando internet e la sua sigaretta elettronica, perché parlavamo fuori onda, Giovanni, e dicevamo: è vero, tante critiche, tante polemiche intorno ad Alonso, ma insomma è dura essere Gimondi quando, di fronte ai Merckx, no? Leo, inviato del quotidiano nazionale e voce molto storico della Formula 1. Sì, io credo che ci voglia anche un po' di umana comprensione per Fernando, nel senso che hai fatto un parallelo giusto. Vedi, noi abbiamo vissuto in Formula 1 una grande era Ferrari dalla fine degli anni 90 al 2008, grosso modo. Adesso siamo in presenza della dittatura bibitara. Alonso, insieme alla Ferrari, è l'unico che riesce a opporsi fin dove possibile a questo dominio della Red Bull, e quindi io credo che anche questo secondo posto di Monza debba essere salutato con ammirazione. Dopodiché è chiaro, noi siamo italiani, vorremmo vedere la rossa vincere sempre, ma la vita, lo sport, le sue leggi, i suoi cicli. Hai fatto bene prima a dire invece che è stato molto brutto l'atteggiamento di una parte di pubblico a fine corsa, perché quei fischi a Vettel sono proprio, direi, il peggio di un'incultura da ultras che in Formula 1 non si vede mai, per fortuna, ed è un peccato averla ritrovata proprio qui in Brianza. Sì, Dario, il fatto, Dario, che sia una tradizione a Monza mi sembra che non sia una scusante, anzi. Dario, se sei d'accordo, facciamo sentire un breve Alonso sulla corsa al mondiale. Alonso. È stato un weekend, come dico, quasi perfetto. Il quasi è che il nostro rivale per il campionato ha vinto, no? E ha aumentato il distacco, però quando uno domina venerdì, domina sabato, domina domenica, dobbiamo fargli complimenti, accettare che sono stati più bravi di noi e provare la prossima volta. Mondiale finito, Dario, e lo chiedo anche a Leo. Lo chiediamo a Leo Turrini. La mia impressione sì, che il mondiale sia finito. Leo, mondiale che si chiude, e poi ti chiedo anche, le emozioni in questo Gran Premio viaggiano spesso via radio, no? Abbiamo sentito la gioia di Vettel e quella di sabato, la rabbia di Alonso. Allora, fatta la valutazione sul mondiale che adesso ti chiedo, poi che graffio lascia quel segno nel rapporto tra la rossa e Fernando? Allora, il mondiale io penso che sia finito, ma onestamente è finito quando la Pirelli è stata costretta a cambiare il tipo di gomma, perché poi queste sono cose che vengono dimenticate in fretta. La stagione è cominciata con un certo tipo di pneumatici, con quelli la Ferrari andava benissimo, dopodiché per una serie di ragioni legate alla sicurezza di fatto si è tornati agli pneumatici del 2012, e con quelli la Red Bull ha recuperato il vantaggio che aveva sulla rossa. Quindi questo va detto, non è un alibi, non è una giustificazione, perché poi quando tu corri devi cercare di vincere adattandoti a quelli che sono i materiali disponibili, però è un dato di fatto, è la verità. Sull'altra cosa, vedi, io credo che non ci siano geni e non ci siano scemi, ci sono solo ferraristi, a Maranello intendo, che lavorano, cercano di lavorare meglio che possono al servizio di Fernando Alonso. Alonso è un grande pilota, è anche una persona intelligente, io lo conosco e non posso parlarne male. Ha un problema, che lui dice sempre quello che pensa, ma non sempre pensa quello che dice. E soprattutto quando si lavora per un'icona come è la Ferrari, che non è una scuderia qualunque, bisognerebbe valutare l'impatto che le proprie espressioni, le proprie esternazioni hanno, perché la cosa sgradevole di ieri è che lui ha dato libero sfogo a una frustrazione, se vogliamo anche comprensibile nel momento specifico, ma che non c'era assolutamente bisogno di rendere pubblica. Schumacher non ha mai fatto queste cose, vuoi che Schumacher non si sia mai arrabbiato con le strategie dei box? Glielo diceva dopo, magari forse tirava fuori anche il gatto a nove code o un frustino, hai capito? Però almeno evitava di esporre alla pubblica gogna le persone che lavorano con lui, ecco, questo sì, è stato sgradevole. A me, Dario e Leo, è piaciuto poco anche il tentativo di retromarcia parziale dopo, ancor meno è piaciuto quello che ha detto oggi Alonso per spiegare tutto il casino nato da quel team radio, magari ve lo faccio sentire, Alonso. Super, è molto divertente tra di noi tutto quello che cercate di fare ogni tanto. È incredibile che una radio che non sapete né il momento che è stato fatto né quando lo mettono un live e tutto, create queste cose. A Spa era il muretto, mi sa che era la polemica, quanto passi lontano al muretto quando cerchi di prendere i marbles subito, perché a Spa non c'è il giro di rientro, c'è solo una curva, poi fai il pit lane a contrario, quindi ogni parola che dico, ogni gesto che si dice, cercate di creare una polemica che da dentro il team è simpatica, diciamo tra virgolette, e non perdiamo neanche un secondo. Non so voi, ma a me la questione del complotto anti-Ferrari fa spanciare dalle risate, Dario. Soprattutto in Italia, soprattutto in Italia, ma sì, di che stiamo parlando? Assolutamente, direi che la retromarcia, insomma, le Formula 1 non sono certo celebri per le loro retromarce, e quindi è normale che queste manovre non riescano benissimo, no? E poi siamo giornalisti, siamo qua apposta anche per prenderci gli strali di Fernando Alonso, che insomma, diciamo che la toppa è stata peggio del buco oggi, no? Guarda, io non voglio fare delle difese corporative della nostra categoria, voglio dire, questo audio di Alonso lo hanno sentito tutti perché era in diretta Mondovisione, che abbia detto siete dei geni o siete degli scemi, comunque era chiaramente sarcastico nei confronti, ripeto, di chi lavora per lui. Dopodiché io sono anche d'accordo che è una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché i mal di pancia alla Ibrahimovic piuttosto che gli sfoghi, insomma, fanno parte, diciamo così, della carriera, dell'attività di qualunque sportivo professionista. Il fatto però che Fernando oggi dica, ah, siete voi, c'è qualcuno che vuole seminare di design, conferma quello che io ti raccontavo poco fa, che lui è un grandissimo pilota, ma non ha ancora capito che guidare per la Ferrari, con tutto il rispetto, non è come guidare per la Red Bull, che pure vince. A proposito di guidare per la Ferrari, può convivere, Leo, questo Alonso con quel Raikkonen che sembra vicinissimo a un clamoroso ritorno, che pure oggi ha fatto una bella gara, e che a inizio del mondiale era il vero protagonista, insomma, con le altre gomme? Allora, la Ferrari annuncerà le sue decisioni questa settimana. La Ferrari deve prendere Kimi Raikkonen, perché la Ferrari sono troppi anni che paga due piloti per averne uno solo in pista, e questo non va bene. E lo dico con tutto il rispetto e l'affetto possibile per Massa. Kimi ha fatto vedere anche oggi a Monza, a parte l'episodio in partenza, di essere in grandissima condizione, perché è stato con Hamilton l'autore della prestazione più spettacolare. Io credo che Alonso abbia tutto da guadagnare da un rapporto alla pari con un altro campione del mondo, anche perché deve liberarsi un po' da questa etichetta che lui, quando è stato insieme a Hamilton, le cose sono andate a schifio e allora non sarebbe in grado di gestire un rapporto con un collega altrettanto veloce. Penso che a maggior ragione, di fronte ai risultati che fa Vettel, è opportuno che la Ferrari, in pista di piloti capaci di provare a battere Vettel, ne schieri due. Quindi io spero che questo annuncio arrivi e che ci dica che l'anno prossimo avremo un dream team al volante delle vetture rosse. Annuncio che dovrebbe arrivare mercoledì. Tanto per essere chiari. Hulkenberg ha detto qualche minuto fa: conservo una piccola speranza che su quel sedile mi possa sedere io. In realtà tutto porta verso Raikkonen. Dario, ti saluto per il momento. Prima della pubblicità e del meteo, 800 24 00 24, c'è già Enrico D'Alecco, lo prendiamo subito dopo. Vi lascio però con l'intervista che hai realizzato a Felipe Massa, che parla anche del suo futuro. Massa. No, io sono soddisfatto di tutto quello che ho fatto, una partenza bellissima, un passo buono. Il problema più grande della mia gara è stato perdere la posizione al box, no, per Webber, lì è stato il problema più grande, non abbiamo fatto un pit stop così buono. E poi ho perso anche un po' di tempo facendo passare Fernando, e sappiamo che forse è una delle ultime possibilità per lui per lottare per il campionato, no? Quindi era importante per lui, per la squadra, quindi adesso però la gara, a parte questo, la gara era, ho fatto un buonissimo lavoro. Mondiale che è svanito per Fernando, come lo vedi, Felipe? Ah, lo vedo quasi, cioè, abbiamo visto le ultime gare, Vettel vincendo tutte le gare, quindi lo vedo molto difficile, però sicuramente deve lottare fino alla fine. Ti senti più vicino dopo questo quarto posto alla riconferma in Ferrari? Non lo so, cioè dobbiamo parlare, finché non ho il feeling giusto della squadra, è difficile dire, è importante buoni risultati per il mio futuro in qualsiasi squadra, quindi proviamo a fare le prossime gare uguali, ma anche la gente sa quello che sono capace di fare, conosce il mio talento e quello è quello che conta di più. Tutti convocati. Io vi ricordo ancora il numero 800 24 00 24. Tra qualche minuto andiamo a Capodistria, perché sta per iniziare Italia-Grecia e la seguiremo con il nostro Carmelo Prestisimone. Poi nella seconda ora di questo nostro appuntamento parliamo anche di calcio, della lunga vigilia di Italia-Repubblica Ceca. Oggi c'è stata la visita del ministro Kienga alla nazionale, è la nazionale più multietnica che l'Italia abbia mai presentato. Vorrei sapere anche che cosa ne pensate e che accoglienza vi aspettate per Balotelli martedì sera allo Juventus Stadium. Enrico D'Alecco, buon pomeriggio. Sì, buongiorno. No, io prego. Telefonavo a seguito del Gran Premio di Monza di dica, oggi, no? Dica. Allora, io l'anno scorso c'ero al Gran Premio, quest'anno appunto né andare a Monza né vederlo per televisione. Ma se io vado a vedere un Gran Premio, devo poter applaudire e fischiare, se no lo vedo davanti alla televisione il Gran Premio. Come tutti gli avvenimenti sportivi, uno paga il biglietto per vivere l'atmosfera del posto, perché le gare si vedono meglio al televisore. Sì, non devi né applaudire né fischiare. Però Enrico, mi perdoni, si può fischiare fino al 90esimo, si può fischiare secondo me fino all'ultima curva, però quando si presenta sul podio un uomo che ha dominato il Gran Premio, che quasi certamente vincerà il quarto titolo mondiale consecutivo, io credo sarebbe buona educazione riservargli almeno un applauso in quel momento, almeno dopo il 90esimo. È questo, allora, quello che penso. Nel tifo non è situazione. Il tifo è tifo, punto e basta. Io sono contrario a quello che fanno giù ai calciatori o ai giocatori di basket di colore, ma applaudire e fischiare fa parte del tifo. Non ho capito che cosa c'è di male se uno si sente, come dire, contento perché ha vinto un altro. Non c'è... è che lo fischiamo, che lo mettiamo, lo impaliamo, no, lo fischiamo. Hai vinto tu, va bene. Perché negli altri stadi come fanno? Sembra che noi italiani siamo i più coglioni, non è vero questo? Ho l'impressione, Enrico, che negli altri stadi fanno esattamente come negli stadi italiani, più o meno. Lei lo sa che io su questo le do assolutamente ragione. Mi sembra che a livello di Gran Premi Monza sia un po' un'eccezione. Gianni dalla Spezia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, senta, io volevo dire, riguardo Alonso, dica. Credo che lui abbia la sfortuna di avere due compagni. Uno Vettel, che è un fuoriclasse come lui, e poi c'è anche Hamilton, che è un fuoriclasse come lui, perché se vediamo le altre guide dei due team, se ci fosse Alonso alla Ferrari e Webber fosse la prima guida della Red Bull, Alonso vincerebbe il mondiale tranquillamente. Sì, io non so se la differenza, che pure è enorme, fra la Red Bull e la Ferrari giustifichi questa impossibilità di Alonso di restare attaccato a questo mondiale. Lei ha detto bene, Vettel è un fuoriclasse e non soltanto il pilota che guida la macchina più veloce. Ho l'impressione che nel dibattito che si è aperto in queste giornate, in queste settimane, su Alonso e sulla Ferrari, questo, almeno da parte di noi tifosi esperti, comunque persone che seguiamo la Formula 1 dall'Italia, si sia un po' dimenticato. Vettel è un signor pilota, forse il più veloce del mondo, forse il più veloce è ancora Fernando Alonso, di sicuro non vince solo perché è sulla macchina più rapida. Grazie Gianni. Andiamo in Slovenia, Capodistria, Carmelo Prestisimone. Ciao Carmelo, buon pomeriggio. Ciao Giovanni, buon pomeriggio a voi. 5 minuti, poco più, qui alla Bonifica Arena di Capodistria per Grecia-Italia, la quarta giornata del girone D degli europei, una partita che sancirà la leadership del girone, azzurri e greci a punteggio pieno, 3 vittorie su 3 partite, italiani che sono senza Diner, infortunato alla caviglia, e la Grecia dell'allenatore italiano Trinchieri invece con Spanoulis in campo, non in perfette condizioni, una caviglia malconcia, ma il playmaker giocherà. Una partita cruciale in prospettiva, perché chi vince questa gara, vista la probabile qualificazione di tutte e due le squadre, si assicura 2 punti per il girone a 6 che si giocherà a Lubiana e che spianerà la strada poi ai quarti di finale. Noi siamo in compagnia di Luca Chiabotti, inviato della Gazzetta dello Sport, che saluto. Ciao Luca, ti chiedo anzitutto, insomma, visti questi due grandi bluff che sono stati Turchia e Russia, questa Italia che squadra è? La squadra probabilmente più simile a quella che ha vinto faticando, soffrendo e difendendo forte con la Finlandia, che quella iperspumeggiante da 80 e rotti punti di media che abbiamo visto nelle prime due partite. Russia e Turchia sono state ridimensionate da loro stesse, visto lo schifo che hanno fatto. Non butterei tutto l'Italia, ecco, non la metterei sul banale allora noi non siamo così forti, perché abbiamo fatto delle ottime partite, abbiamo dato delle ottime sensazioni e ce le siamo ritrovate con la Finlandia in una partita comunque difficile. Certo che stasera probabilmente avremo veramente il termometro della nostra situazione. Ecco Luca, stiamo dando anche uno sguardo alle altre formazioni impegnate soprattutto nel girone C, che dovrebbero, che si incroceranno anzi con quelle del nostro girone, del girone D, insomma Italia e Grecia, lo dicevo poc'anzi, che dovrebbero passare, salvo insomma imprevisti che dovrebbero avere l'incredibile. Ecco, però queste formazioni del girone C, Slovenia, Spagna, che squadre sono? Sono alla nostra portata? Questa Italia, insomma, davvero può vincere queste partite contro Slovenia, Spagna, che sono quelle un po' più accreditate anche per la vittoria finale? Certamente non siamo favoriti dal pronostico, però la Spagna, al di là di alcune vittorie facilissime che ha fatto come oggi con la Polonia, ma contro una squadra allo sbando, non ha ancora dimostrato nulla della grande Spagna, pur avendo Marc Gasol, Ferrudi, giocatori di un'altra categoria, diciamo. La Slovenia, noi l'abbiamo abbiamo giocato bene con la Slovenia in amichevole, però sono qui a casa loro, avranno una spinta. Sarà molto duro il girone successivo, probabilmente passerà la Croazia di Jasmin Repeša se non succede qualcosa, se anche loro non combinano dei guai come tutte le squadre stanno combinando. Io credo che noi ce la possiamo veramente giocare con tutti, restando però con la testa calma, perché chiaramente sono di un livello superiore, però tutte queste squadre hanno delle assenze come le abbiamo avute noi, e francamente per quello che si è visto in campo non è che siamo secondi a nessuno. Poi ripeto, magari stasera la Grecia ci ridimensiona, ma fino a questo momento secondo me noi ce la giochiamo alla pari, perché nessuno ha fatto vedere delle cose straordinarie. Carmelo, ti chiedo di salutare Luca Chiabotti, sì. Tra l'altro gara che sta iniziando, manca davvero sì. poco al via d'Italia-Grecia, che lo dico agli amici a casa, racconteremo con la voce di Carmelo Prestisimone da Capodistria fino alle 19. Non prendiamo nemmeno in considerazione l'ipotesi che la nazionale non passi al secondo turno, esistono alcune combinazioni di risultati che ci possono eliminare, però noi non siamo scaramantici e lo diciamo, l'importanza di questa partita l'hai spiegata bene Carmelo. Serve proprio per preparare il secondo girone, dove arriveremo anche mentalmente scarichi, perché quello che dovevamo fare fin qui l'abbiamo fatto, viste le premesse. Grazie Carmelo, quindi torniamo presto da te a Capodistria. 800 24 00 24 per dire che cosa ne pensate. Torniamo a Monza, Dario Ricci. Ciao Dario. Eccoci qua. Ti posso leggere qualcuno dei messaggi, ne stanno arrivando tanti, al 349-238-6666, hanno colpito molto i fischi a Vettel, scrive un amico, lo sport dovrebbe essere principalmente una scuola di vita dove si compete con lealtà, si vince senza infierire, si perde con dignità, gli italiani non sanno proprio come si sta al mondo. E altri ancora su Twitter, chiocciola tutti i convocati, essere tifosi significa che non può esistere cultura sportiva, è naturale. E poi ancora questi fischi sono ignoranza pura, degna del calcio, cose che nei Gran Premi all'estero non sono lontanamente immaginabili. Insomma, quei fischi non sono piaciuti, io ripeto, sono una tradizione a Monza, fanno anche parte della passione, del colore, del folklore. Il fatto però che siano una tradizione non è dal mio punto di vista un alibi. Dario. Ah, sono pienamente d'accordo con te, hanno un po' sporcato quella che è stata comunque una grande giornata di sport in cui c'è stato un verdetto netto, c'è un campione che è più forte, ha la macchina più forte ma sa esaltarne anche le qualità. È chiaro che avremmo voluto vedere su quel gradino una tuta rossa e un campione asturiano, ma Sebastian Vettel non sta rubando niente a nessuno, come chiedo al nostro secondo ospite Marco Mensurati, amico e collega della Repubblica. Beh, Marco, appunto, commentavamo questi fischi che hanno un po' sporcato questa giornata di sport, tra l'altro, tra parentesi, dovevano tutti prendersi la pioggia, piloti, pneumatici, eccetera eccetera, ce la stiamo prendendo noi adesso perché sta diluviando, sì, in questo momento poco male. Sì, questi fischi sono stati certamente una delle pagine più brutte di questo comunque splendido weekend di Formula 1. Spiace molto doverlo constatare che questa cosa accade solamente in questo Gran Premio, solamente in Italia, dove purtroppo l'anno scorso c'erano stati anche dei burazzisti nei confronti di Hamilton, sporadici, ma c'erano stati. E spiace anche constatare che nessuno si è preso la briga di condannare, nessuno dei protagonisti si è preso la briga di condannare, anzi in realtà la Ferrari si è fregiata degli applausi di questo splendido pubblico, è un virgolettato, ecco. Questo è un po' l'unica pagina non bella di questo Gran Premio, che comunque ha celebrato quello che comincia a profilarsi come una leggenda dell'automobilismo. L'impressione che io ho è che abbiamo sempre un po' sottovalutato la portata del talento di Sebastian Vettel, un ragazzo che ha 24 anni, ha già vinto 3 mondiali, un quarto purtroppo per la Ferrari, si sta apprestando a vincerlo in questa stagione, e un quinto gli è stato rubacchiato nel 2009 da un Ross Brown un po' troppo furbo, come i ferraristi anche sanno molto bene. Ecco Marco. Ecco Dario, Dario, abbiamo il traffico. Io sottoscrivo le parole di Marco Mensurati dalla prima all'ultima, soprattutto quelle su Sebastian Vettel. Vi chiedo di aspettarci, abbiamo la pausa per il traffico, poi ripartiamo da voi e allarghiamo il discorso anche alla direzione sportiva della Ferrari, perché in tanti ci stanno scrivendo al 349-238-6666 sottolineando che anche oggi comunque è stata presa una decisione strategica alla fine sbagliata. Adesso però il traffico. Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky e sei in pole position. Tutti convocati. 800-24-0024, torniamo a Monza, Dario. Ecco, sì, ancora con Marco Mensurati della Repubblica. Beh, Marco, dicevamo, i nostri ascoltatori stanno mettendo un po' sotto accusa anche la direzione sportiva della Ferrari, no? Questa scelta di far rientrare sì Alonso, ma dopo ben quattro giri rispetto al pit stop di Vettel. In realtà, dico la mia e poi sentiamo la tua, che poi è sicuramente più interessante, però è sembrata un po' la mossa che nell'hockey ghiaccio si fa quando per rimontare una partita si butta anche il portiere in avanti, no? Insomma, la mossa della disperazione, perché questa Red Bull già si capiva che non ce n'era. Sì, la Ferrari non avrebbe potuto vincere neanche se avesse azzeccato quella mossa, ma neanche se ne avesse azzeccate altre 5 o 6 di svariato tipo. Il dramma era che oggi la Red Bull era sostanzialmente imprendibile. Quanto alla scelta in sé, la scelta di posticipare il pit stop, riascoltando il team radio, le comunicazioni tra pilota e squadra, va osservato che è stato Alonso stesso a indurre quella scelta, poi è stata assecondata dal box. Non è che quel giretto in più magari gli hanno fatto fare, come a dire, vabbè, decidi te e adesso vediamo dove va a finire, perché insomma, Sì, il clima tra la squadra e il pilota è quello che è, però è in netto miglioramento, si sta rasserenando, escluderei una lettura così maliziosa, sarebbe forse un po' troppo. La verità è che la Ferrari questo mondiale non lo ha perso qui a Monza, non lo ha perso neanche a Spa. Il mondiale lo ha perso quando Alonso all'inizio della stagione, con la macchina migliore della griglia sia in Malesia sia in Bahrain, non ha riuscito a ottimizzare la condizione in cui si trovava fortunatamente, cosa che invece ha fatto successivamente Vettel, e poi lo ha perso soprattutto, forse poi lo ha perso a luglio, quando la squadra ha conosciuto un inspiegabile blackout mentale, non è riuscita più a portare quei miglioramenti che in quella fase della stagione, fase centrale, erano indispensabili, ed esattamente dove lo ha vinto la Red Bull, quando a luglio ha imposto allo sviluppo della macchina un'accelerazione spaventosa di cui ancora adesso si sta beneficiando. Dario, se sei d'accordo, facciamo un po' di telefonate, sono in tanti che ci stanno chiamando sulla questione di Alonso, della Ferrari, di questo Gran Premio. 800 24 00 24. Allora partiamo con Piero dalla provincia di Como, buon pomeriggio Piero. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno, con permessi della trasmissione. Grazie, dica. Una cosa, la Ferrari è 80 anni che è sulla piazza con tecniche varie, eccetera, eccetera. La Red Bull è 4 anni, sta polverizzando 80 anni di esperienza della Ferrari. Cos'è il pilota, la meccanica, i soldi che mettono la Ferrari o qualcosa d'altro? O anche gli uomini forse che la Red Bull ha preso per dar vita a questo progetto, Dario, allarghiamo anche a Monza la risposta. Non mi sembra sia uno scandalo, la Formula 1 è uno sport, come tutti gli sport vive di cicli, questo è il ciclo della Red Bull. Sì, direi che questo è il ciclo della Red Bull, che ha fatto una campagna acquisti a livello di Real Madrid, Barcellona e Paris Saint-Germain. Se queste squadre fanno queste campagne acquisti, potrebbe anche essere legittimo il pensare che la Ferrari, così come Inter, Juventus e Milan, non possa farla. Ma chiediamolo a Marco Mensurati, è una chiave di lettura che può starci, oppure perché questi austriaci in 4 anni si sono portati tutti a casa? Ma bisogna essere sinceri, hanno portato tutto a casa perché sono stati spaventosamente più bravi della concorrenza, molto molto più bravi della Ferrari. Da un lato è vero che hanno fatto una campagna acquisti importante acquistando il miglior tecnico in circolazione, che è appunto quel geniaccio di Adrian Newey, però è anche vero che hanno scovato, pagandolo praticamente nulla, quello che al momento è il miglior pilota in circolazione, che è Sebastian Vettel, che lo ricordiamo non hanno comprato da un grande team, ma lo hanno scelto nelle serie inferiori, lo hanno fatto crescere, lo hanno messo presso la Toro Rosso, la scuderia satellite sotto la cura di un grande uomo di Formula 1 come Giorgio Scanelli, che lo ha fatto crescere, lo ha consegnato alla cosiddetta prima squadra in così fatto e finito, in grado di vincere tutto quello che ha vinto. Più che un Real Madrid, diciamo che è un incrocio tra Real Madrid e Barcellona, con una cantera molto molto importante. Non vi dimenticate, non sottovalutate il fatto che la Red Bull, a differenza della Ferrari, ha già annunciato quello che sarà il secondo pilota per il prossimo anno, che è questo Daniel Ricciardo, che ha avuto esattamente lo stesso percorso di Sebastian Vettel e che da tutti i maggiori esperti di Formula 1 è considerato una promessa assolutamente splendente del panorama, una stella futura quasi garantita. Ora sì, è chiaro che bisognerà vedere come resisterà la pressione, però la Ferrari una mossa come questa non è stata in grado di farla praticamente mai, neanche la Schumacher. Sì, talentino non male neanche lui. Grazie a Dario Ricci e Marco Mensurati, grazie. Grazie a voi da Monza. Grazie da Monza. Alberto da Savona, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. A voi, a tutti i suoi ospiti e agli ascoltatori. Dica. Ma dal mio punto di vista il vero valore della Ferrari è quello di Massa, e quanto può andare avanti ce lo mette tutto completamente Alonso, se posso dire la mia. Che quindi è imprescindibile per questa Ferrari? Assolutamente sì. Se poi posso andare un attimino contro quello che è il pensiero comune, non lo so, io sto Vettel così fenomeno non lo vedo. Però, buon pilota, però una grande numeri, macchina, Alberto. Aiutato da tantissima fortuna. Va bene, grazie Alberto. Ma Mario dalla provincia di Macerata, 24 anni e probabilmente 4 titoli mondiali, avrà anche fortuna, però nello sport bisogna anche rispettare i numeri, io questo è quello che penso. Mario, buon pomeriggio. Buonasera, senta, volevo rettificare, io ho 71 anni. Sì, dica. Io volevo fare una domanda secca. Secondo voi è essenziale Alonso per la Ferrari? Secondo me sì. Secondo me no. È essenziale a patto però che si rimetta a remare dalla stessa parte della Ferrari. Sì, e infatti. Perché io voglio dire, se ci fosse stato il grande vecchio, non so se l'avrebbe mantenuto ancora dopo tutte queste cose che ha fatto ultimamente. Io dico che ci potrebbero essere tanti piloti più giovani e forse anche più capaci. Sì, io non so se ci sono piloti più giovani e più capaci, non so nemmeno come si sarebbe comportato Enzo Ferrari, che pure licenziò Prost per una battuta infelice. No? Secondo me Alonso e la Ferrari devono andare avanti, però a me non è piaciuto, e l'ho detto, quello che è successo in questa seconda parte della stagione. Dario, dalla provincia di Salerno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Niente, la mia era una domanda, chiedevo questo. In previsione delle vicerie sul Raikkonen alla Ferrari, no? Volevo sapere, non è forse perché praticamente c'è in previsione di Alonso un'altra scuderia? No, io non credo Dario, ne abbiamo parlato da Monza prima, è proprio una scelta della Ferrari, la scelta l'anno prossimo di provarci, di seguire questo mondiale con due prime punte. Alonso ha un contratto pesantissimo e lungo, un contratto difficile da rescindere anche perché non ci sono sedili a disposizione. Grazie Dario, 800 24 00 24, ci fermiamo per il GR e poi parliamo della nazionale. Giovanna, puoi volare l'occhio su te? Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing. Tutti convocati. 800 24 00 24, andiamo in Slovenia, Italia-Grecia, secondo quarto, Carmelo Prestesimone. Minuti e 12 secondi alla fine appunto del secondo periodo, Grecia avanti 25 a 20 sull'Italia con un parziale di 6-0, in questo momento pianeggiano è chiamato time out, qualche errore di troppo, però l'Italia ha giocato un primo quarto sicuramente di sostanza con Cinciarini, playmaker, che ha gestito abilmente insomma i suoi compagni. In questo momento in campo c'è Peppe Poeta, vista anche l'assenza di Travis Diner, infortunato alla caviglia. Nella Grecia invece c'è a disposizione di Andrea Trinchieri Spanoulis, che ha qualche problema alla caviglia, però insomma è disponibile per giocare. 7 minuti e 12 secondi, Grecia 25, Italia 20, siamo nel secondo periodo, a te Giovanni. Sì, mi sembra Italia assolutamente in partita contro la Grecia, assolutamente in partita, questa è una gara che è fondamentale vincere. 8-0-0-24, 0-0-24, apriamo la pagina sulla nazionale, anche se restiamo anche sulla Formula 1, su Alonso, che è la notizia di giornata. Io vi leggo che cosa ha scritto su Twitter Maurizio Crosetti pochi minuti fa. Maurizio Crosetti è una delle firme nobili di Repubblica. Fischiamo l'inno della Bulgaria, fischiamo Vettel sul podio, che gente miserabile siamo, e poi ci lamentiamo di chi ci governa. Il tema dei fischi a Vettel vi sta dividendo. 8-0-0-24, 0-0-24, due giorni a Italia Repubblica Ceca. Proprio in questi minuti la nazionale si sta allenando allo Stadio Olimpico di Torino. Questa mattina c'è stato l'incontro con il ministro Chieng, ieri il digiuno per la pace, si parla di tante cose, si parla, mi sembra, poco della partita in queste ore della vigilia, ore che sarebbe meglio fossero essenzialmente, secondo me, di lavoro e preparazione. Perché il rischio è distrarsi troppo, perdere di vista che siamo a un passo dal traguardo, fare come a Palermo dove alla fine ci ha salvato Buffon. Due buone parate, sono contento perché più che altro sono risultate utili a fini del risultato. Questa doveva essere la nazionale dei giovani, invece è la nazionale dei grandi vecchi. Ora torna Balotelli e vediamo come Torino lo accoglierà, si spera, senza saltelli, senza cori idioti. Questa è una nazionale multietnica. Il ministro Chieng questa mattina, dopo aver visitato gli azzurri: io ho sempre chiamato lo sport anche per lavorare insieme, camminare insieme in questo percorso, in questo cambiamento culturale contro ogni forma di razzismo e per una forma di integrazione. E la squadra di calcio, lo sport, è uno dei terreni più utili anche per camminare insieme. Sul campo servono i tre punti per il Brasile, subito dopo che sia fatta chiarezza da parte di Prandelli, prima di tutti. Avere la concentrazione e il pensiero esclusivamente sulla qualificazione, poi ci saranno programmi, progetti con la massima trasparenza. Perché in Brasile si deve andare con le idee chiare, guai a trascinarsi dubbi, polemiche, autocandidature che pure sono fioccate in questa settimana. Spalletti no, Conte più tardi, Zaccheroni forse, il nome giusto secondo noi però è lui, Max Allegri. Il sogno, la voglia è quella di allenare un giorno la nazionale del proprio paese, e lo è anche per me. In questo momento sono allenatore del Milan, sono molto contento di essere al Milan, al Nazionale è un grande commissario tecnico, e quindi in questo momento rimaniamo ognuno sulle proprie panchine. Forza Azzurri, forza Prandelli, il giorno dopo aver strappato il pass mondiale, però andrà annunciato con chiarezza il futuro, guai a tardare anche solo di un minuto. Tutti convocati. Guai a tardare, Marco Ansaldo, e guai anche a distrarsi. Come sta vivendo la nazionale questa penultima giornata di vigilia d'Italia Repubblica Ceca? Ciao intanto. Ciao, ciao. Ma a giudicare dal fatto che sono le 18:10 di una domenica pomeriggio e siamo ancora fuori dai cancelli dello stadio, ex stadio comunale ora olimpico di Torino, perché non ci fanno vedere una parte dell'allenamento, direi che evidentemente gli azzurri la stanno prendendo molto sul serio, quasi fosse una finale mondiale. Non so cosa Prandelli deve nascondere, ma evidentemente qualcosa deve nascondere. Sì, c'è un po' di pretattica in questa lunga vigilia. Tra l'altro il programma della nazionale è cambiato, perché originariamente l'allenamento era previsto per questa mattina, quello aperto anche a voi giornalisti, con una seconda seduta a porte chiuse pomeridiana. Poi c'è stato l'incontro con il ministro Chieng. Ho l'impressione che nelle prossime ore, Marco, si parlerà molto anche di Balotelli e dell'accoglienza dello Juventus Stadium. Tu hai il polso di Torino, della tifoseria della Juventus, sappiamo i precedenti, cosa ti aspetti? Io so che quando poi, tutte le volte che è successo che si è parlato di grandi cose, grandi problemi, grandi rischi e così via, poi non è successo niente, penso possa succedere anche stavolta, anche se poi tra l'altro non è detto che ci vadano solo i tifosi, è vero che giocano alla Juventus Stadio, giocando alla nazionale magari ci vanno anche i tifosi non della Juventus. Però credo che ci sarà un sì, probabilmente, ecco, diciamo questo, Balotelli non suscita simpatie, quindi magari ci sarà un'accoglienza fredda, non so se poi ci saranno dei cori, spero proprio di no, sarebbe un atto estremamente stupido proprio, ma lo è sempre, non solo in questa situazione ovviamente. No, non c'è dubbio. È anche vero che comunque Balotelli un filino si espone a delle situazioni critiche, perché ad esempio il fatto che oggi sia venuto il ministro, che ha parlato di integrazione, abbiamo sentito le sue parole, anche belle, importanti e così via, e che Balotelli se ne sia rimasto a dormire, io, per carità, non aveva l'obbligo di presentarsi, però secondo me tutto sommato, insomma, come si sono presentati Al-Sharawi e Bonna, io credo che Balotelli fosse più che mai parte in causa, e quindi sai, lui si espone un po' troppo secondo me a con delle atteggiamenti, delle situazioni a volte anche poi con le quali si calca anche troppo la mano. Però vedi, non si capisce il perché di certe situazioni. Certamente. Marco, ti chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi torniamo da te, sempre che i cancelli dell'Olimpico di Torino siano chiusi e non vi abbiano ancora fatto entrare per questo allenamento dell'antivigilia, allenamento a porte chiuse, segretissimo, di Prandelli. Traffico. È il coro della tua vita questo? Questo è il coro più bello che ho mai sentito. Tutti convocati. Prandelli è troppo ecumenico, prima il digiuno, poi la ministra, poi il calcio è solo un gioco, non deve insegnare nulla. Raffaele da Pistoia al 349-238-6666, Marco Ansaldo, inviato della Stampa, al seguito della Nazionale, parliamo un po' di calcio, tornano Balotelli, Osvaldo e Montolivo, ti aspetti una Nazionale diversa da quella francamente un po' penosa, vista contro la Bulgaria, in difficoltà, salvata da Buffon, ne abbiamo parlato in questa settimana? Ma credo che qualcosa cambi, non sarei del tutto convinto, cioè io penso che Montolivo alla fine giocherà, però Montolivo non è nella condizione secondo me di tenere 90 minuti, quindi bisogna vedere cosa succede. Balotelli e Osvaldo avanti danno molta presenza fisica, anche se poi Gilardino è stato decisivo nella partita contro i Bulgari, non dobbiamo dimenticarlo. Qualcosa cambi, io spero che soprattutto ci sia un centrocampo che sappia reggere più a lungo di quanto non ha fatto con la Bulgaria, perché ci siamo andati in barca nel secondo tempo e anche perché un po' per i cambi che sono stati fatti, ma comunque il centrocampo non è riuscito più a filtrare i bulgari e quindi questi si presentavano anche in 7-8 vicino all'area. Sì, credo che questo sia un campanello d'allarme. Prandelli ha detto non siamo in condizione, è vero, siamo a inizio stagione, però è anche vero che bisogna cominciare anche a ottimizzare a fine anno, non saremo certamente in condizione perché come tutti gli altri arriveremo da una stagione massacrante, lo abbiamo già visto con la Confederation di quest'estate in Brasile, non può però diventare un alibi, questo almeno Marco è il mio pensiero. Io volevo solo dire che questo concetto che per cui a settembre noi non siamo in condizione, io che purtroppo ormai sono vicino ai 60 anni e ricordo come erano le preparazioni delle squadre di 30 anni fa, 40 anni fa, allora si poteva anche capire, perché ad esempio la Juventus la prima partitella che faceva la faceva contro la Juve B a Villar Perosa il giorno di Ferragosto, oggi la Juventus a Ferragosto aveva già fatto fior di preparazione, quindi mi sembra che questa storia debba un po' essere sfatata. Cioè, perché non devono essere condizioni i giocatori italiani che in gran parte sono da almeno un mese e mezzo che si stanno allenando, stanno lavorando, alcuni hanno anche giocato già delle partite importanti. E poi soprattutto facciamo settimana più, settimana meno, quello che fanno tutti gli altri. Anche perché a questa pausa delle nazionali, ad esempio, arriviamo con la doppia giornata di campionato, con il turno di preliminari delle coppe europee. Io non so se questa possa essere la spiegazione per quello che abbiamo visto a Palermo venerdì sera contro la Bulgaria. Marco, ti saluto e ti ringrazio. Benissimo, ciao. Ciao Marco Ansaldo, inviato della Stampa, al seguito della nazionale. 800 24 00 24, Giuseppe da Prato. Pronto? Prego. Sì, io volevo intervenire a proposito della Ferrari. Dica. Ecco, volevo dire, secondo me la politica della Ferrari è simile alla politica dell'Italia, sì, nella quale abbiamo buttato via quello che era il cuore italiano. Un nuovo Enzo Ferrari ha messo in piedi una famiglia dove la gente lavorava per il bene di quel nome, per il bene dell'Italia, per il nome dell'Italia. E una volta che poi entrano in campo le multinazionali, pensano solo ogni tanto a tirare il remo in barca e a realizzare ciò che si è investito. Secondo me la Ferrari in questo momento sta facendo questo, ha perso il cuore italiano, ha perso la mente italiana, c'è solo un'idea, ecco, di rientro magari degli investimenti fatti, e in questo momento si vivacchia. Sì, a me sembra, Giuseppe, che la Ferrari investa e molto sulla Formula 1, investa e molto sulla ricerca che accompagna la Formula 1. Io non credo sia questo il problema. Il problema è che sono state fatte scelte forse sbagliate, non tutte giuste, e in questo momento, questione di cicli, c'è chi come la Red Bull sta ottimizzando il tanto che ha investito. Alessio, dalla provincia di Lucca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Volevo fare questo ragionamento qui. Mi sembra, avendo visto l'Under 21, sì, contro il Belgio, avevo visto una squadra di dilettanti contro la squadra di professionisti. Sì, non una bella figura. No, ma probabilmente c'è un problema che noi, ad esempio, le squadre B, come succede nel campionato spagnolo e inglese e company, che ci sono le squadre B di giocatori che riescono a fare un campionato che non è quello Bavera, che sono giocatori che non sono pronti per fare campionati professionistici, loro sono più tecnicamente e anche fisicamente preparati. E insomma, lanciare qualche giovane vuol dire fare delle scelte magari politiche di squadra, che in questo momento mi sembra che in Italia sia lontano. Io sono d'accordo con lei, Alessio, e aggiungo, coinvolgendo anche Giovanni Galeone, buon pomeriggio Galeone. Buon pomeriggio a voi. Aggiungo anche che, ad esempio, io comincio un po' a scocciarmi di sentire fior di allenatori, a partire dallo stesso commissario tecnico Prandelli, continuare a sottolineare che i club sbagliano a puntare sugli stranieri, a non dare fiducia nei giovani, quando poi, ad esempio, in una situazione di difficoltà, la nazionale messa in campo da Prandelli a Palermo contro la Bulgaria, insigne a parte, è stata una, credo, la nazionale più vecchia di questo ciclo. C'erano 5 over 30, c'era un'età media molto vicina ai 30 anni. Galeone. Parliamo tanto, però siamo indietro. Sì, ma tutti anche... però, anche quelli che pontificano. Ma io non faccio più l'allenatore da qualche anno, mi sono sempre piaciuti i giovani, però una volta si riusciva a fare gli allenatori anche nelle massime categorie, passando prima anche per i settori giovanili e anche facendo della gavetta. Adesso è facile, i ragazzotti arrivano facilmente alle prime squadre, non se la sentono di puntare su giovani e vogliono elementi già maturi, già pronti, su cui si può fare sicuro affidamento, ma di questo ne patisce il calcio in genere, il calcio nostro in genere e i giovani in particolare. Ma questo non è un problema che va affrontato alla base. Le piace questa nazionale di Prandelli? No, non mi piace, ma non mi piace il gioco italiano, il calcio italiano in genere. Dicono tanto degli stranieri, però gli stranieri, quelli che vengono, se sono bravi, sono bravi. Se arrivano gli Higuaín, se arrivano Tevez, se arriva Trotto, ma se arriva questa gente qui, e Kovacic, gente brava, bravissima. Non abbiamo avuto niente da dire quando arrivavano Van Basten, Rijkaard, Gullit e compagnia bella, o Sivori o Altafini o quella gente ancora prima, perché dobbiamo avere da dire adesso? Il fatto è che non abbiamo coraggio a far giocare i giovani. La nazionale di Prandelli no, non mi piace. Si vede che non può fare a meno dei vecchi. Ogni tanto leggo che addirittura si pensa a Totti, pensiamo a Del Piero in Australia, a qualcun altro, non lo so, però non andiamo avanti. No. Non andiamo avanti con le nazionali giovanili, arriviamo lì perché siamo abituati a lottare, perché siamo abituati all'agonismo, a queste cose qui, però non si vedono i miglioramenti. Sì, la differenza tra il Belgio o tra l'Olanda e la Spagna poi e la nostra Under 21, insomma, ma è evidente agli occhi di tutti. Sì, sono stati due confronti, quelli con Olanda e Belgio, avvilenti, diciamo la verità, anche se quella di Biagio è una nazionale Under 21 a inizio ciclo, e quindi bisogna anche dare il tempo per andare a scegliere i migliori, certamente. Prima, Lei l'avrebbe fatto rientrare Kakà in Italia, ha fatto un affare il Milan? Ma era da un po' di tempo che il Milan pensava a un ritorno di Kakà. I precedenti non sono buoni, quelli di Shevchenko, di Gullit e compagnia bella, quelli non sono stati buoni sicuramente. Io spero per Kakà e anche per Allegri, al quale tengo in modo particolare, che gli vada bene, perché è un giocatore che se sta bene, anche a partita in corso, è capace di cambiare il risultato. È un giocatore che è dotato di grandi qualità tecniche, questo non lo scopro sicuramente io. I ritorni mi lasciano sempre un pochino perplesso, però in tutta sincerità auguro che questa volta mi auguro di sbagliarmi, veramente. Leggo Gagliani oggi dalla Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Allegri: a maggio conoscerò che budget ho a disposizione per la prossima stagione, ha detto Gagliani, e quindi avviso tutti quelli che sono in scadenza che non se ne parla prima. Con tutto il rispetto per i giocatori, quello in scadenza che pesa è Allegri. Traduco: a marzo Allegri sarà un allenatore libero per dire sì alla Federcalcio e prendere la panchina di Prandelli. Quanto ci sono andato lontano? Non lo so, so che abbiamo passato dei periodi brutti in Italia in cui addirittura i giocatori rifiutavano la nazionale, erano cose allucinanti veramente. Dopo c'è stato un periodo degli allenatori, però fare l'allenatore della nazionale italiana credo che sia la cosa che un allenatore sia il massimo per un allenatore. Allegri ha il profilo giusto, so che chiederlo a lei che è particolarmente vicino ad Allegri è quasi una domanda banale, scontata, ma ha il profilo giusto per fare il tecnico dell'Italia? Ha tutto per farlo, perché il selezionatore è una cosa un po' diversa dall'allenatore di calcio. E per prima cosa credo che ci sia anche la valutazione proprio tecnica dei giocatori che si vanno a scegliere per comporre una rosa nazionale. Ecco, io sono contrario ai 150 convocati, 75 convocati, non ci sono 75 giocatori degni della nazionale in Italia, non ci sono, punto e basta. Insomma, per giocare in nazionale bisogna essere giocatori da nazionale, per essere giocatori da nazionale bisogna che l'allenatore ne capisca di calcio, che faccia delle valutazioni ben precise, vada avanti senza paura con dei giovani, possibilmente in maniera tale da poter eventualmente anche pensare a un futuro, una cosa che pochi allenatori hanno fatto. Sì, abbiamo visto grandi esperimenti, rose allargatissime, gruppi allargatissimi in queste ultime gestioni della nazionale. Galeone, io la ringrazio, un flash, solo sì o un no, lei 10 euro li scommette su Allegri da luglio CT della nazionale, sì o no? Io sì, ma molti di più anche. Molti di più. Grazie Galeone. Grazie a voi. Grazie a Giovanni Galeone. 800 24 00 24. Dopo la pausa per la pubblicità, spazio alle vostre telefonate. C'è sempre il tema della Ferrari, dei fischi a Vettel. Poi vi leggo anche alcuni dei messaggi che ci sono arrivati su Twitter o SMS al 349 238 6666. Prima però ci fermiamo, pubblicità. La cosa che mi fa più rabbia è che 45 giorni di ritiro, nemmeno un raffreddore. Da parte mia c'è la consapevolezza che questa squadra ci andrà in A, ma ne sono convinto. Tutti convocati. 800 24 00 24. Prima delle vostre telefonate però andiamo ancora a Capodistria. Carmelo Prestisimone, Italia Grecia. Il primo tempo, i primi due periodi, 38 Grecia, Italia 36, quindi meno due per la squadra di Pianigiani, che comunque ha giocato soprattutto un finale di secondo periodo davvero straordinario, con una schiacciata formidabile di Alessandro Gentile in faccia a Burusis e una bomba di Bellinelli che ha risposto a Papa Nicolau. Andiamo a vedere anche un attimo gli score di questo primo tempo con Alessandro Gentile e Andrea Cinciarini insieme a Marco Bellinelli, top scorer per l'Italia con 7 punti, mentre invece gli ellenici hanno Sprintesis e Papa Nicolau, anche loro con 7 punti. Una gran bella partita, forse la prima partita vera di questo europeo. 38 Grecia, 36 Italia, siamo all'intervallo lungo, fra 10 minuti l'inizio del terzo periodo. A te Giovanni. Grazie Carmelo. E allora 800 24 00 24. 24. Vi leggo alcuni messaggi arrivati su Twitter. I fischi a Vettel sono libertà di esprimere la propria incultura, ha scritto Luca. E poi ancora Gigi, alla fine di una competizione sportiva sarebbe bello rendere onore al vincitore perché è un segno di rispetto. E poi c'è chi scrive: la passione è anche questo, forse all'estero non c'è la stessa passione per la Formula 1 che c'è a Monza, Sante, e altri invece che ricordano come in Inghilterra e Germania ne sappiano anche più di noi, eppure applaudano. Biagio da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego Biagio. Io volevo intervenire sulla questione del razzismo e Balotelli. Dica. Per dire che nel caso specifico, secondo me il razzismo c'entra molto poco. Sì, però, cioè, però Biagio, abbia pazienza, non mi faccia arrabbiare. Il razzismo c'entra poco, però poi è un virus strisciante che abbiamo negli stadi, nella società. Balotelli ha il suo carattere, borderline, io lo capisco, avete ragione, però poi certe cose non si possono fare. Prego Biagio. Ma non è detto che certe cose non si possano fare da una parte sì e dall'altra parte no, perché quando Balotelli offende le persone, offende il tifoso, beh, il tifoso non può porgere l'altra guancia. Ma Balotelli sbaglia, ma Balotelli sbaglia, sbaglieranno anche i tifosi. Sbagliano anche i tifosi che insultano, tifosi, certo. però esiste quel confine che non va superato e che rende un insulto una questione razziale, questo è il mio parere, per cui non si può dire, ad esempio, che non ci sono negri italiani. I negri italiani ci sono, è la realtà, è oggi, è così, può piacere o non piacere, ognuno si tenga il suo parere. Però non si può, Biagio, si supera secondo me un confine, di qui c'è l'inciviltà, l'incultura, la maleducazione, e Balotelli è secondo me criticabile esattamente come i tifosi, di là c'è qualcosa che ha un'etichetta e un nome diverso, questo è quello che penso io. Claudio da Napoli, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Volevo aggiungere qualcosa su Alonso. Sì, dica. Volevo dire, cioè, secondo me Alonso è vero, è colui che aggiunge del valore alla squadra Ferrari, e non, come si è detto prima, magari che invece sia contro la squadra stessa, quando invece secondo me il vero valore della Ferrari attualmente sia proprio quello di Massa, che appunto dimostra che se oggi non fosse stato per un Hamilton e un Raikkonen partiti indietro, secondo me sarebbe finito addirittura molto peggio del quarto posto. Sì, se non fosse stato per Alonso, che doveva assolutamente andare ad inseguire Vettel, io dico però, ad esempio, che oggi Massa sarebbe stato a lungo secondo e non terzo, perché c'è anche il gioco di squadra, c'è anche una posizione ceduta, c'è anche il gioco di squadra in box, io credo, per materiali, per possibilità che vengono dati ai due piloti. Penso sia ingeneroso, e con questo non sto dicendo che Massa ha fatto una buona stagione, del resto basta dare un'occhiata alla classifica: Massa 79 punti, Alonso 169, però non credo che la differenza sia lì, Claudio. No, la differenza la fa non il pilota Alonso, non rispetto a Massa, perché quello è il livello della Ferrari, secondo me. Se posso permettermi, prego, di aggiungere una cosa sul secondo pilota, oggi Webber ha dato fastidio ad Alonso, che se in una condizione magari Alonso fosse più vicino a Vettel, magari lo avrebbe raggiunto, cosa che Massa invece non ha fatto. Ed è credo questo il motivo che gli costerà il sedile della Ferrari, lo abbiamo detto, mercoledì l'annuncio sarà Raikkonen, quasi certamente, e Massa l'ha capito, e oggi lo abbiamo sentito anche nell'intervista al nostro Dario Ricci, ha cominciato tranquillamente a parlare di un suo futuro lontano dalla Ferrari. Claudio da Bologna, buonasera. Buonasera, prego. Volevo fare complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire una cosa in merito a quello che è successo oggi. Credo che noi italiani siamo poco sportivi, perché nei confronti di Vettel probabilmente è il pilota migliore che c'è adesso. È vero che la macchina è al top, perché la Ferrari probabilmente non investe abbastanza, tant'è vero che la Red Bull ha costruito una galleria del vento già nel 2006 di ultima generazione, e dove la Ferrari secondo me è ancora un po' indietro, e la differenza della macchina sta proprio nell'aerodinamica, tant'è vero che noi vediamo che Alonso, che è un ottimo pilota, non riesce a stare dietro alla Red Bull, Sicuramente i fischi fatti a Vettel, quando avremo Vettel in Ferrari, che Montezemolo ha sempre detto che non lo vuole. Sì, ma prima o poi arriva, eh. Quando arriva in Ferrari lo porteremo più che Schumacher, perché vincerà più mondiali di Schumacher. Sì, io a parte Senna negli ultimi 30 anni non ricordo un grande pilota che non sia finito alla Ferrari, anche tra quelli che sono stati, Claudio, i grandi avversari, i grandi nemici, i nemici sportivi della Ferrari, quindi sono sicuro che Vettel finirà prima o poi in Ferrari. E devo dire che difatti il tedesco è stato molto intelligente oggi dal podio, seppure sommerso di fischi, anche mentre cercava di parlare al microfono, ha sempre sorriso, ha sempre accarezzato quel pubblico della rossa che pure lo stava fischiando. È tradizione, io mi ripeto, non perché è tradizione, è qualcosa che sarebbe bello cancellare dalle domeniche di Monza. Grazie a Claudio. Parliamo un po' di calcio, perché stiamo per entrare nella settimana di Inter-Juventus. Oggi a Monza c'era Ronaldo, che è stato intervistato dal nostro Dario Ricci, ha parlato proprio di Inter-Juventus, sentiamolo. Sì, è bello, vediamo, sarà un altro bellissimo classico, vediamo come ecco, succede. Ecco, quest'Inter di Mazzarri che effetto ti ha fatto in queste prime uscite, hai visto qualcosa? Ma sicuramente come l'Inter è fuori dall'Europa, si concentrerà di più a giocare il campionato e credo che farà anche bene. Può essere simile alla tua Inter, quella di Simoni? Ci sono degli elementi in comune fra questi allenatori, secondo te? Vai, speriamo, io sempre ho un affetto speciale con l'Inter e speriamo che faccia bene. Hai visto Lorente, Tevez e Giovinco? Gli hai detto qualcosa in vista di questa sfida? No, non di questo, ma abbiamo parlato di altro. Come finirà? Come finirà? Vediamo come finirà. Il tuo pronostico? L'Inter vince. L'Inter vince, ha detto Ronaldo. Stiamo entrando nella settimana che ci porta a Inter-Juventus sabato prossimo ore 18, per fortuna lo dico, per quelli che sono in crisi di astinenza, questo weekend senza calcio sta finendo e poi sarà la lunga attesa di Inter-Juventus. Sempre Nagatomo, prova a liberarsi, Palacio, Buffon, Rodrigo, Palacio, 3-1. Ed è anche fastidioso sentire fare dell'ironia anche prima della partita dai dirigenti della Juventus sull'atteggiamento tattico dell'Inter, però loro sono fatti così, va bene così, penso che poi a fine partita magari la pensa diversamente il dottor Marotta. Arrivare questa squadra adesso, perché i tifosi già si chiedono, c'è la Juve, siamo alla seconda partita di campionato, può arrivare molto avanti se continua a giocare con questa concentrazione e soprattutto così bene. Domenica avremo un test importante contro una squadra che si è rinnovata molto, che è l'Inter. Noi crediamo di aver operato bene, di aver operato aumentando il livello di qualità. Siamo sempre prudenti, umili da una parte, anche se abbiamo voglia di vincere sicuramente. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e... Più grande spettacolo dopo questo weekend senza calcio è certamente Inter-Juventus sabato prossimo ore 18 e tra l'altro vi anticipo domenica ne parleremo, ospiteremo tutti i vostri commenti all'800240024. Io saluto e ringrazio Giancarlo Marocchi ed Evaristo Beccalossi. Ciao Giancarlo, ciao Evaristo. Ciao, però con Giancarlo non parlo, te lo dico subito. Non parli con Giancarlo, perché? No, era una battuta. Come sta? No, bene, diciamolo ormai, perché non possiamo. Ciao Gianca! Uno per volta, però, perché sennò non si sente. Giancarlo. Allora, no, raccontiamo che io e lui non possiamo coesistere perché siamo due estrosi, due fantasisti, anche se io poi ho fatto altro corso per i fantasisti, perché d'estate ci ha rimproverato Arrigo Sacchi che noi siamo disordinati quando giochiamo, e quindi o uno o l'altro. Ma io proprio per questo vi ho convocato insieme, Arrigo non se la prenderà. No, per... ma... perché però abbiamo deciso noi, abbiamo fatto fuori Arrigo, vedi, Giancarlo andiamo d'accordo, l'abbiamo fatto fuori Arrigo. Però io da voi voglio sapere se questa Inter-Juventus di sabato prossimo ha un senso definirla una sfida, non dico scudetto, ma che può avere un'importanza su questo campionato, o stiamo parlando soltanto di una meravigliosa suggestione? Abbiamo sentito Moratti, Marotta, credo in crisi d'astinenza anche loro, in questo weekend senza calcio. Evaristo? Parto io? No, per noi è importante, perché la Juve è la squadra più forte, ancora la squadra da battere. In questo inizio Mazzari ci ha messo molto del suo e veramente ha preparato, soprattutto anche a livello fisico, tatticamente, insomma, un'Inter nuova. Siamo curiosi, però qualsiasi risultato succeda sicuramente non sarà a fine della classifica, non cambierà nulla perché sia all'inizio, però a livello psicologico potrebbe essere importante, perché insomma la Juve è la squadra più forte, è la squadra da battere. Giancarlo? L'anno scorso paradossalmente è stata importante al contrario per l'Inter, ovvero dopo aver battuto la Juve pensavano di aver già finito la costruzione della squadra e di lì è iniziata una discesa inesorabile che purtroppo ha portato anche a quello che è successo, cioè a quell'Inter brutta, con una brutta classifica. Stanno facendo due campionati diversi, l'Inter deve trovare la dimensione, però Inter-Juve va al di là proprio di quello che è la classifica, rimane sempre il derby d'Italia e quindi che sia una grande partita, e io proprio gli toglierei il valore della classifica. Sì, ho l'impressione, Giancarlo, che comunque vada a finire sabato questo Inter-Juventus, difficilmente Mazzarri farà l'errore di Stramaccioni un anno fa, tu ricordi giustamente la vittoria di novembre, che probabilmente ha convinto anche Stramaccioni di poter fare un campionato diverso da quello che quell'Inter si poteva permettere. Sì, tanto Mazzarri ogni giorno, forse anche delle volte due volte al giorno, dirà: no, lasciatemi in pace, devo costruire. Si vuol guadagnare del tempo, si vuole ottenere del tempo, non solo dai suoi dirigenti, che credo glielo concederebbero volentieri, ma anche che i tifosi non si aspettino subito un Inter da scudetto, e poi pronto anche a farsi portare in trionfo qualora a maggio, insomma, sia lì a giocarsi o l'accesso alla Champions, magari per lui e per tutti i tifosi dell'Inter, anche lo scudetto, chissà. Certamente. Giancarlo Marocchi e Evaristo Beccalossi, vi chiedo un minuto di pazienza, abbiamo le informazioni sul traffico, poi ripartiamo da voi. Beh, ma anche se ero primo, finivo secondo lo stesso. Tutti convocati. Grecia avanti 45-42 con l'Italia, Capodistria, terzo quarto che è iniziato da 3 minuti, Italia però che se la sta giocando. Giancarlo Marocchi e Evaristo Beccalossi, sulla settimana di Inter-Juventus che si sta aprendo, lo abbiamo detto, il più grande spettacolo dopo questo weekend senza calcio. Evaristo, ieri Milito, non so se hai dato un'occhiata, il gol bello, un po' imballato, lui stesso lo ha ammesso, del resto non gioca da 7 mesi dopo l'infortunio. Ti aspetti che Mazzarri lo convochi? Può essere un fattore, o anche qui è soltanto una suggestione quella che inseguiamo? Non conviene rischiarlo, però lui è già tornato in anticipo e siamo contenti. Poi io l'ho visto tra l'altro giocare le gare con la Primavera, l'ho visto anche abbastanza bene, però credo che non sarà della partita. L'importante è che sia tornato a lavorare col gruppo e aspettare la forma migliore, perché è un giocatore che secondo me ci farà ancora fare la differenza. Giancarlo, tu ti aspetti di vederlo, non dico in campo, ma nei 22-23 che Mazzarri si porta in ritiro? No, assolutamente, perché Mazzarri è molto prudente in queste cose, poi ha una squadra che funziona adesso con solo Palacio lì davanti e non vuole neanche pensarci di cambiare, mettere due punte o quantomeno averlo in panchina, poi diventa una pressione verso se stesso, quindi secondo me non lo convocherà. Intanto non ci sono ancora notizie sull'esito degli esami strumentali per Vucinic, rientrato oggi a Torino dopo l'infortunio al ginocchio sinistro patito con la sua nazionale. Dalle nazionali è arrivata però proprio in questi minuti un'altra brutta notizia per la Juventus, un comunicato ufficiale dell'Uruguay, una lesione al menisco per Caceres, che dunque rientra in Italia, e dice la federazione uruguayana è stata informata la Juventus. Giancarlo, a proposito di Vucinic, dovesse mancare, è la giornata di Llorente, oppure credi che Conte in questo momento non crede in questo giocatore? Ma io Ma mi immagino anche una chance per Quagliarella per dar seguito alla telefonata che ha bloccato il giro di punte dell'ultima giornata di mercato, perché gli allenatori fanno valutazione proprio a 360 gradi, pensano a tutto. Tanto Llorente ha avuto l'occasione nelle prime partite, adesso gli toccheranno un paio di mesi per imparare, diciamo così, tra virgolette, tutti questi movimenti degli attaccanti a venire soprattutto incontro, eccetera. Quindi mi aspetto Quagliarella. Sì, io non credo che il destino di Llorente sia quello di Bentner, no. Però certamente sta faticando, è un po' in ritardo, secondo me. Forse lo stesso Conte si aspettava qualcosa di più. Grazie a Giancarlo Marocchi ed Evaristo Beccalossi. Grazie a voi, ciao Giancarlo. A voi, ciao Evaristo. Ciao. Grazie a tutti e due. Sabato ore 18, Inter-Juventus, il più bello spettacolo dopo questo weekend senza calcio. C'è anche il derby di Genoa, domenica sera, Genoa-Sampdoria, che merita assolutamente. 800-24-0024, Giuseppe Dall'Aquila, buon pomeriggio, anzi buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera a te. Volevo portare una testimonianza diretta circa la maggiore cultura sportiva degli altri popoli, sì. Almeno a proposito di Formula 1. E mi riferisco agli inglesi, che io non amo, ma che sono lontani anni luce, ci danno anni luce per quanto riguarda la cultura sportiva. Porto una testimonianza molto, molto veloce. Primi di luglio del 2007, Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone, eravamo io ed altri tre amici al Gran Premio, quattro italiani in una tribuna piena di inglesi che tifavano ovviamente Hamilton. Quello era il primo anno di Hamilton a entrare insieme ad Alonso, tra l'altro, e in Ferrari c'erano Raikkonen e Massa. Ad ogni giro, quando passava Hamilton, era un boato della tribuna, e ogni giro che passava Raikkonen io tifavo in maniera molto rumorosa. Loro sempre più forte, io sempre più forte. Bene, quel Gran Premio lo vinse Raikkonen. Al giro d'onore, quando passò Raikkonen, tutta la tribuna si alzò in piedi e tributò un grandissimo applauso a Raikkonen. E questo credo sia, Giuseppe, l'atteggiamento giusto. Poi Monza è bella anche perché ha questa passione, ha questa capacità di farsi prendere dalla pancia, vive la Formula 1 in questo modo. Però i fischi oggi a me non sono piaciuti, mi fa piacere che non siano piaciuti nemmeno ad altri. C'è chi continua a giustificarli, poi per carità non è successo niente di grave, c'è di peggio. Grazie a Giuseppe, saluto Corrado Barazzuti, commissario tecnico della nostra nazionale di tennis. Buonasera Corrado. Buonasera. Parliamo un po' di tennis, di Flavia Pennetta. Volentieri. grande soddisfazione, anche se oggi la finale è tra Serena e Lazarenka, domani ci sarà Nadal Djokovic, però noi non possiamo passare via da questa settimana di Flavia Pennetta agli US Open. No, assolutamente. Voglio dire, Flavia ha giocato un grandissimo torneo, ma soprattutto insomma è ritornata ad essere la grande campionessa che era. Flavia è venuta fuori da un periodo molto difficile, è stata operata proprio mi pare l'anno scorso, a fine anno, al polso, per cui in un momento in cui stava giocando molto bene, quindi ha attraversato un periodo molto difficile, un recupero molto lento, ma alla fine insomma sono uscite fuori le qualità, il carattere della grande giocatrice. E voglio dire, stranamente ha raggiunto probabilmente il risultato più importante della sua vita fino adesso, questa semifinale a Flushing Meadows, che insomma la riporta praticamente tra le grandi giocatrici. Sì, è quasi incredibile pensare che un anno fa in questi giorni Flavia Pennetta era con un polso a pezzi, penso poche certezze sul futuro. Domani rientrerà intorno alla 30ª posizione del ranking del tennis mondiale. È questo il suo livello? Può, deve crescere ancora? Che obiettivo deve porsi Flavia Pennetta, Corrado? Beh, Flavia insomma, è una giocatrice che è stata una prime 10 del mondo, quindi non c'è dubbio che se gioca come ha giocato questo torneo, il suo livello insomma è molto molto più alto ancora, ma io credo che insomma assolutamente Flavia è in crescita, ritornerà voglio dire, ad essere una delle più forti giocatrici del mondo, ci sono tutti i presupposti, insomma. Quindi poi, insomma, non so dove potrà arrivare, ma certamente uno non si pone più dei limiti, perché se poi, voglio dire, dopo quello che ha passato e, diciamo, non si può definire una giocatrice giovanissima, ottiene questi risultati, insomma, voglio dire, aspettiamoci che Flavia possa arrivare in alto. Chi vince domani fra Nadal e Djokovic? Ma io credo che vinca Nadal. Mi sembra che obiettivamente sia il giocatore più in forma in questo momento, sta giocando molto bene, non solo in questo torneo, ma insomma anche i tornei precedenti. Mi sembra che Nadal sia ritornato dopo il problema alle ginocchia, voglio dire, più forte di prima, e lui è più forte di prima, sono gli altri che sono calati. Comunque, voglio dire, mi sembra che non ce ne sia per nessuno. Sì, posso confessare di essere un po' intristito da quello che ho visto invece di Federer in queste due settimane degli US Open. Credo siamo al passo d'addio, non so quanto sarà lungo questo passo. Forse comincia ad avere ragione anche chi dice che Federer la sta un po' tirando lunga. Certo, lui si diverte, vince ancora qualcosa, guadagna, non c'è nessun motivo per cui smetta, se non quello che sarebbe bello lasciasse, se non all'apice, comunque non sporcando il ricordo del campione straordinario che è stato. Sì, io non credo che lui possa comunque sporcare, voglio dire, la sua carriera, perché insomma è un giocatore ci mancherebbe. Di un livello troppo, troppo alto, insomma, ha fatto veramente talmente tanto che non c'è, secondo me non c'è pericolo in questo. Credo che, insomma, Federer sia abbastanza intelligente per capire quando sarà il momento di smettere. Sul fatto che sia che possa smettere, ecco, io non ne sono assolutamente molto sicuro. Mi pare che due o tre anni fa o due anni fa lui cominciò a avere dei problemi, tre anni fa mi pare, fece un anno molto brutto e si cominciò a parlare proprio di un Federer che stava a fine carriera perché aveva vinto tanto, dopodiché fece l'anno dopo fu uno degli anni migliori della sua vita, vinse anche Roland Garros. Però gli anni, Corrado, cominciano a passare. Sì. No, questo è vero, però ecco, ricordiamoci che parliamo di un giocatore che ha, secondo me, il tasso tecnico più alto, uno dei giocatori, secondo il mio punto di vista, della storia, con un tasso tecnico tra i più alti mai visto. Sì, quindi, necessariamente deve essere sorretto dal fisico. Ecco, esatto. Però questo, a certi livelli adesso comincia a fare fatica. Grazie a Corrado Barazzuti. Prego, arrivederci. Grazie a Corrado Barazzuti. Noi siamo in chiusura. Rapidamente i risultati della B: Avellino Ternana 0-0, Lanciano ha vinto a Cesena 1-0, 1-1 Empoli Trapani, 3-0 del Varese a Latina, 2-0 del Modena sul Cittadella, 2-2 tra Pescara e Crotone, 3-1 della Regina sulla Juve Stabia. In questo momento in campo e sullo 0-0 ci sono Avellino e Ternana. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore anima di questa puntata. Ringrazio anche Pietro Lacorte e Filippo Aureggi, che si sono alternati in regia. L'appuntamento con tutti i convocati domani alle 14 con Carlo Genta. Noi invece torniamo domenica prossima a partire dalle 17, tutti convocati weekend con il dopo Inter Juventus.